Maria! Oh, Giulio, a me! Ehi, qua sono! Che sta a fare, che sta a fare? Niente! Ascoltare il quaderno! Cosa vuoi dire con questo? Che ti ho chiamato poco fa, e non ci... Sì, è che stavo... regolando una cosa. Poi ti vedevo mentre era portante. Ero io che stavo regolando qui una radio. Sempre quello che c'ha vite, non lo puoi intendere. E se così finiti, partono di nuovo. Adesso mi devono mandare questo Saturnecco, non so, ma che ne può nemmeno ma tocca a togliere la tastiera, mouse e tutta la roba, perché l'altro banco c'è la roba del computer. E mettiti un banco in terrazzo, mettiti, ancora già è tempo buono intanto. Metto fuori, no, magari lascio serenare anche di notte. E allora, tanto non hai la tenda, non hai il tendone, se non piove dentro va bene, no? Freddo non ce n'è perché è ancora il tempo buono, per cui vuoi anche farlo, no? Beh, quello sì. Vabbè, c'è sì, la tettuia con la col tendone, sì, sotto lì. Per carità, vabbè, finché sono palati piccoli li fai così, non occupano molto spazio, ma quando iniziano a essere grandi. Vabbè, liberi tutto, cosa vuoi figlia? Liberi tutto, ce la vuoi. Te l'ho detto, fai un banco lì, tanto l'antenna te la puoi portare anche fuori, che problemi hai? Sì, tutti gli altri strumenti, il casino è quello, già ce li ho tutti appesi, così, perché pensa che non ci sta neanche una camera a ponte qua, pensa a due, c'erano all'epoca, avevamo due reti a castello, proprio perché c'è un pilastro in mezzo alle scatole, guarda che tu non ne hai un'idea, e così che non si fa nulla, perché da una parte c'è la finestra e non si può mettere niente, dall'altra parte c'è dove c'è la porta, sì, che se metti una camera a ponte non ci sta, non apre la porta, nella parete dove si può fare qualcosa c'è un pilastro portante che purtroppo non si può toccare, se no l'avrei già buttato a terra, e invece è un pilastro portante, non si può fare nulla, manco a mettere una camera a ponte più piccola di, guarda, non si può. Che cosa si può fare? Farla fare su misura. Allora sì, su misura, studiando il pilastro, che insomma, tutte quelle cose lì, solo così si può ingrandire un po' la camera. Più c'è il letto, naturalmente, che ci dormono qua. Beh, è detto ora a cosa serve a dormire, no? Per cui, vabbè, questo pilastro te l'hanno messo nei piedi. Faccia dire a Puccedini, da su fai una cosa, fai un sostentamento, ti pigli un paio di travi di cose, sfasci il tetto e te lo rifai tutto a capo. Ah, bella idea, vai, lascia stare il pilastro dove è, lascia, fate la camera nuova, a ponte, su misura. Se tu vedi in soffitta cosa ci ha appoggiato su quel pilastro lì, guarda, hanno fatto un trave di mi pare che è 70-80, che non sta reggendo nessun peso, capito? Parte da una parte della soffitta, da dove c'è appunto l'ingresso, fino in fondo, e non c'è niente appoggiato sopra, capito Giulio? Non c'è assolutamente niente. È un trave da 70 cm, guarda, che lo devi scavalcare per passare dalla parte opposta, perché praticamente la soffitta è divisa in tre, no? C'è la parte centrale, poi sinistra, per andare dall'altra parte devi scavalcare un trave sempre da 70 cm. La tappata è lo stesso, se vai a destra è la stessa cosa, scavalcare l'altro trave, e tu vuoi il trave che sostiene il tetto, ti metti le mani in testa, e neanche nei grattacieli ne fanno di travi così alti. Dei travi così alti per sostenere un pezzettino di tetto, capito? E tra l'altro questa trave appoggia anche sui pilastri a circa 2 metri di distanza, no? È arrivato un trave da 70 centimetri. Deve essere su sicuri abbigliato sicuro sui geometri. Meglio così. No, io ne ho uno pilastro però e ci passa attorno, ci passa la scala. Salire sia per scendere giù che per salire su, ci ho fatto la scala lì, tutta. Per cui è collegata a quello, siccome la camera è 7 metri per 7 metri, dai diciamo, e allora le travi del solaio non c'erano così lunghe, le avessi più corte agganciate a questo trave a spessore, ma non trave ribassato, no, proprio a livello di solaio, praticamente lo stesso livello, non è un trave ribassato, è a spessore, è largo, sarà largo penso 60 cm, perché ha fatto dal muro portante a quel trave lì dove c'è il pilastro, perché sul pilastro c'è quella trave lì, e poi l'altro pezzo altri 1,50 m, 2 metri o quanto è, la trovo sempre i travetti a solaio, capito? E insomma, non è che anche qua già ci sono delle trave, mentre invece nella casa a fianco l'hanno fatto lo stesso trave, l'ho ribassato, io ho ribassato, non ne ho voluto perché a me non mi piace che tu te l'avevi ribassato così, il solaio è liscio come deve essere. Certo, vabbè, ma finché sei in fase di costruzione, parli col geometra e le migliorie o le modifiche si possono sempre fare, capito? Vabbè, ma non è che io devo fare nessuna miglioria, a me va bene così, non c'è problema, praticamente ho 2 facciate, ne ho uno sulla strada e uno all'interno dell'ingresso, praticamente, ad angolo, infatti nel piano di su, nella camera di mia figlia c'è una finestra ad angolo, cioè con la persiana ad angolo, una parte scorre in facciata e una parte scorre all'interno dell'ingresso praticamente. Ma ecco, no, io avevo visto sul telefono la scala, bella, molto molto bella quella scala lì. Poi teniamo un'altra su, che c'è un pezzettino, 3 gradini così, a giorno e poi il resto a chiocciola per salire su alla massata. Che poi la stiamo usando come soffitta praticamente, perché ci va mai nessuno, ci vado io solo a giocarmi. Ah, dove c'è il laboratorio, così è? Il laboratorio, così è. Non è che sia proprio un laboratorio, comunque diciamo che vado lì a passare qualche oretta, di tanto in tanto, anche stamattina non ho lì per farmi lo stazzone del microfono, me lo faccio su. C'era in pratica la mansarda per conto tuo? Allora, se voglio c'ho tutta la mansarda per conto mio, non ci sale mai nessuno su, non ci sale mai nessuno, per cui poi ho anche delle cose da finire che non ho mai finito, non lo usiamo nemmeno, capito? Non me la fotte niente. E ti sei fatto la sala radio, così è? No, la sala radio. La sto usando per mettere tutte le cose che non usiamo mai, tutto, capito? Per cui no, però volendo mi posso fare anche tutto il banco, tutto attorno, volendo, e a voi a loco, è solo che non le ho mai voluto fare io. Attimo la falla, la buia. Cos'è il negozio? Non me ne faccio niente, figurati. Per cui già, vabbè, così. Io ci salgo solo io, qualche volta sale mia figlia su, ma sale solo magari per curiosare cosa sto facendo, oppure per chiamarmi, così, però non, ci salgo solo io, non ci sale mai nessuno. Ehi, vabbè, almeno c'è, diciamo, un po' di cose per te, dai. Volendo ho tutto il piano, che adesso praticamente sono 50 metri quadrati, per cui però siccome ci sono le travi, no, che fanno da parte da una certa altezza arrivare a basso a livello di uno di un avanzato, no, praticamente un metro e dieci sarà, un metro e dieci, e che fino a un certo punto puoi camminarci bene in piedi, poi se non ti vuoi sbattere la testa devi abbassarti. Sì che non riesci a sfruttarla tutta, dai. Come qua la soffitta lame è lo stesso, già devi entrare che in piedi mica ci stai, è un metro e 50, mi pare, se non ci stai in piedi, poi fa andando è a zero. No, qui la parte più alta qui è quasi 3 metri, 2,80, 2,70, non lo so di preciso. E poi va a finire a 1,20 m, 1,20 m, capito? Ah, allora già ne hai spazio anche in fondo, dai, per poter mettere qualcosa. Ti fai tutto, diciamo, la parte di sotto lo uso come sgabuzzino, per le cose che non usi mai, che poi, sai, come ci sono le tante cose, se li hanno, magari non se ne ricordano nemmeno cosa c'è, però non li usano mai, quando gli succede qualcosa lo dicono a me, guarda se mi trovi, vabbè, io non la ciappo mai, no, non ce l'hai, ti dico, magari non l'ho nemmeno guardato. Beh, per forza, e come fai? Poi cosa fai? Andano e compareggiano. E magari in soffitta o comunque in mansarda ce li hanno doppie, triple le cose, così è qua. Soffitta è piena di trappiati, pentole, servizi completi, cose che non tratti mai. E io mi chiedo sempre, ma cosa ne fermo? Cosa possiamo utilizzare tutto questo spazio per altre cose? No. Tegami dei Amiflex, lì Guido e l'altro. Guarda, ho lottato per anni per riuscire, avevo un divano e due poltrone grandi e due poltrone piccole in venduto, che era un vecchio salotto che avevamo prima, quando eravamo nell'altra casa, ed era sempre lì su. Tu non ti immagini quante volte gli ho detto adesso lo distruggo, adesso lo taglio, adesso questo, no, toccare, che ho peccato. Alla fine finalmente sono riuscito dopo anni a convincere, l'ha già fatto tutto a pezzaletti e sono già buttato subito, appena che mi ha detto va bene, avanti, buttalo via, subito, esci che lo posso subito a pezzo, sia che cambia idea, l'ha già fatto subito a pezzo e ce l'ho portato subito all'acquacentro. Va tu, mai così, non vogliono buttare via niente, ma cosa, ma buttati le tue cose, ti dici? Te lo sto dicendo, che io dico che non c'è, non sa nemmeno quello che c'è, mia moglie ad esempio non sa nemmeno quello che c'è, però almeno si ricorda sì che aveva detto mettilo lì e poi magari se gli mette che non sa uno in diebo, per dire, ad esempio l'altro giorno mia figlia era in continente, è andata a cantare, no? Adesso ci sono tre con un roller per il viaggio, no? di tre misure, ce n'è uno grandissimo, uno medio e uno proprio piccolo. Beh, vediamo cosa faccio, andate a comprare un roller nuovo per andare per fare un viaggetto di tre giorni, che è andato a Bologna a cantare. I trulli, sì, ce li abbiamo anche noi quelli che sono uno dentro l'altro, ci stanno, sì. È vero, quelli ce li ho, sono chiusi dentro un bustone, caso che servano, ma sono cose che non si usano mai. Poi c'è un terrazzino anche, un terrazzino che sono 2,50 m per 3 metri, ho fatto tutto il resto, tutto, oltre all'ho fatto della scala, è tutto libero, tutto completamente libero. Vabbè, ripeto, ho tante cose, ci sono tante cose mie anche, ci sono radio valvolari, mi va in agio di così, si può immaginare, la rigma da capo, quindi si butta tutto al Berlovic, o meglio al Concentro, perché erano tutte radio che io avevo rimessi a posto, funzionanti, eccetera, eccetera, ma poi non li li ho usati per anni e anni e anni. Sì, ogni tanto ne tolgo fuori qualcuna, mi faccio funzionare 5 minuti e poi te la do la pulita in dita. Sì, per fare questa fissazione, allora, di comprare, mettere o tenere negli scaffali e poi non si usa mai, perché tanto ti dicono esci meglio con quello, esci meglio, lo provi, sì, come tu dicendo, va bene, sì, se ti sbaglio allora ti faccio fare. No, radio di cosa stavo dicendo, radio, addirittura con giradischi, eccetera, ne ho anche 3 o 4 con giradischi, ne ho con i giradischi separati, sempre con altre radio. Mannaggia, di radio ne avrò in tutto, tra grandi e piccoli, senza esagerare, ma almeno 20 radio io ho, senza, a incominciare dal transistorino sino alla radio grande, stereo, per dire, no, con le casse, eccetera. Sì, sì, mi ginco, è appassionato di quelle radio lì, a valvole soprattutto. Belle, ne ha di veramente belle. Chi è che ce l'ha quelle? Emanuele Ginco, è appassionato, ce n'è una bellissima a mobile, c'ha tutto il mobile, la radio, il giradischi, tutto, guarda, veramente è che prende un sacco di spazio queste cose qua. Quello è il problema, è quello, che prende un sacco di spazio, guarda. Ma se non so più neppure la roba, guarda. Tu pensa che a mia figlia gli avevo fatto una scantiera? Una scantiera che è un armadio largo, 1,40 m più o meno, con 3 spuntini sotto e 3 spuntini sopra, altezza da terra, dal pavimento fino al solaio, e la usa solo lì, quell'armadio lì lo usa solo per la scantiera, per mettere le scarpe, ma dentro ci sono 120-130 paia di scarpe più o meno, le dico solo per le scarpe, poi ne ha altre due armadi che messi insieme diventano, affiancati uno all'altro diventano 2,50 m, sempre per 2,60 di altezza, stanno scoppiando dalla roba che c'è dentro, bacchari dai, e intanto sempre comparendo, tu ogni pochi giorni mi dà delle buste piene di scarpe o piene di roba da buttare nel coso degli abiti usati, e intanto vai, eliminando e comprando, ma è mai possibile. Perché gli piacciono al momento, li usano magari una stagione e poi passano di moda, invece di darle magari a chi ne ha bisogno, giustamente, o buttarle, li dai nell'armadio, perché forse fra 10 anni li rimetto. Ma c'è una cosa, guarda, presente ce l'hai quei sacchi neri che si usano per la mondenza, alti 1,10 m x 70 di larghezza, di diametro, quando è pieno. Pieno di roba o di scarpe. Ogni tanto faccio il viaggio e riempio quel cassone che c'è, quel cassone di gialli dove si usano per buttare gli abiti usati. Tutta roba nuova, tutta roba buona. State sempre comparendo e lampendo. Che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Tanto glielo dici e ti dice di pensare alla roba tua, capito? E cosa ci vuoi fare? Borse, poi non le va a vedere, tutti i tuoi borsi, che poi non si ricorda nemmeno quali ci sono, quando va a guardare, questa non me la ricordavo, oh. È andato con parenti sempre, no, sempre con parenti, mi ha dato di lampo un poco, qualche cosa gli faccio sparire anch'io così di nascosto, ci metto dentro le buste così, dentro le buste nere, intanto non si vede cosa è, e gli faccio sparire io tante volte. Non si ricorda nemmeno quello che c'è, se che ti puoi immaginare. E allora, ma non ha senso stare sempre, sì, io capisco la moda, tutto quello che vuoi, ma tu non puoi comprare 120, 130 maggi di voti, ma cosa te ne fai? Ma il consumismo ci vuole, Giulio, ci vuole il consumismo, se no l'economia va a farsi benedire. Sì, vabbè, tutto quello che vuoi, ma questo è uno spreco di denaro, capisco che le donne devono fare sempre moda tutti i giorni, eccetera, eccetera, magari una mattina si veste in una maniera, della sera in un'altra e così via, e lei si deve presentare davanti a delle persone, che lei lavora in un ufficio 3 volte alla settimana, insomma, deve sempre ovvio essere presentato. Ma se una volta avevo nel portabagagli, avevo il portabagagli pieno di roba da buttare, e mi era rimasto, non me l'ero accorto, e c'era un giubbotto, c'era questo portabagagli. È arrivato un amico con la moglie, una mattina eravamo lì davanti in motel, e arriva questa moglie, a me, ho preso il portabagagli così per un motivo che non me ricordo nemmeno per cosa, a me dove buttare questo giubbotto, buttarlo. E c'era la moglie, l'ha visto, fammi vedere, e si sta dal butti, aspetta che me lo misuro, se la misurato e se la piglia tua enda, per dire no. Visto, hai fatto del bene. Hai fatto del bene, non è che l'ho dato io, cioè io l'ho dato perché l'ho voluto, cioè io ci stavo buttando, io ci avevo buttato, me l'avevo dimenticato nel portabagagli, avevo buttato tutto quello che c'era, se sapevo che era così interessata la facevo scegliere prima, quando era ancora pieno il portabagagli. Vedi, perché tu devi prima di buttarla, devi pensare a qualcuno che magari mi fa più comodo. Su Facebook, guarda, c'è un sacco di gente che regala, piuttosto che buttarle, mette l'annuncio, chi vuole un paio di scarpe o... Ah, tra l'altro gente che si presenta. Già lo so, ma cosa mi pongo, a vendi roba così, ho messo delle cose, degli abiti usati, poi qualcuno li userà, perché intanto un giorno quando sono andato a buttare un sacco di cose e c'era questo camion, poi c'è un furgone grande, c'era pieno zeppo di infatti non l'ho buttato nemmeno dentro, l'ho dato direttamente a lui, che stavano svuotando loro, questi ce ne sono due di quei cassoni, e li stavano svuotando e caricando nel camion tutta la roba che c'era dentro, e sono cose che poi loro scelgono, magari li danno per gli abiti usati e li vendono nelle bancarelle eccetera. No, questi c'è proprio cose di regalo, capito? Ma cose anche nuove, non rotte o che cosa. Roba nuova, capito? Che regalano. Ce n'è di gente che si presenta. Sì, lo so che c'è gente che mi prende. Tanta gente magari ne avrebbe necessità, ma è cosa vostra, andi in giro a domandare. Oh, oui, magari se tu hai qualcuno, anche se vedi che ne ha necessità, che è povero, quello, se gli offri qualcosa è capace di soffrendere il burro, invece ce ne butti e basta, non se ne parla più. Poi se finiscono in una chiesa dove ci sono gli abiti per i poveri o in qualsiasi altro posto, se li prenderanno da lì, adesso cosa ne so, se non li butto e basta, no. Certo, ma io ho visto svuotando i cassoni gialli, cioè la roba, buttando la roba poi nell'altro cassone, quello normale, cioè, ma proprio quelli del comune. Così non va bene, se gli abiti sono buoni, a meno che non sono vecchi, stracciati, eccetera, allora ce li butti nel coso della mondezza e basta, nel secco, ma se sono buoni, che si possono ancora usare, buttali nei cassoni gialli, così qualcuno poi li userà, c'è gente che ne ha bisogno e qualcuno li userà. È così intanto, guarda, è inutile stare lì, però, vabbè, viva l'abbondanza, certo non è quando ero ragazzino io, no, noi eravamo lucino, poi c'era, no, non dico fame non ce n'era, però c'era molta povertà da parte della gente, eccetera, tu pensa a capita, che la gente del vicinato, tu non immagini nemmeno quanti pentole di minestrone o di pasta e fagioli o di pasta tutta mia madre ha distribuito alla gente che abitava vicino a noi lì a San Salvicchio, tu non ti immagini nemmeno, anche a un CB che purtroppo ormai è scomparso da anni perché eravamo vicini di casa, tu non immagini tanti barizzoni della puttana, le faceva apposta le pentole grandi per dargli a quella famiglia, le faceva lui, una a noi e una a Eddie. Aspetti un secondo, sta arrivando gente, aspetta. Vabbè. La metti, no? Si chiama Pagappa, Giulio. Sei tornato? Sì, c'è gente, è arrivata gente, così che mi dovrei assentare. Che poi vengono con i cani, e c'è la mia che fa un casino nero ogni volta. Vabbè, dai. Aspettati, aspettati, non c'è problema. Ci sentiamo allora, dai. Adesso, no, mi stavo per scattarti una foto. Fatti vedere la campiera di mia figlia, ma non l'ho scattata ancora. Ma io te la posso, già la scatto, già te la faccio vedere. Qualche momento, ok? Per darti un'idea. Sì, ma immagino. A me sembra che l'ho passato lì in bottega quando stavo ricostruendo quell'armadio a tua figlia. Boh, io qui ho fatto tutto io. L'armadio di cavalletto che ho io qui è 3,10 per 2,60, anzi 2,65, 2,67, sì, boh, di altezza. La mia ci sono i 12 punti, 1, 2, 3, sì, sì, sono... Sì, 12 fontelli e 5 cassetti nella maglia di cavalletto, tanto per darti un'idea. 12 fontelli e 5 cassetti. Cassetti grandi come quelli del comune praticamente. Va bene lui, dai, se devi andare, chiudi pure, non c'è problema, ci sentiamo domani. Sì, dai, cose coincida dopo, dai. Bravo, ciao, ci sentiamo. Ciao.